Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, via Zanardi in Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, nonché con l'apposita app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente dal nostro sito radiocittafujiko.it. Come ogni mercoledì alle 10.30 circa parte Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo con il proposito di proporre musica di tutti i generi e di tutte le epoche. Naturalmente purché sia registrata dal vivo, infatti la trasmissione, ribadisco, si chiama Città Fujiko Live Club. E come ogni trasmissione, anche quest'oggi, 18 ottobre, Città Fujiko Live Club parte con una novità che è l'ultimo album live di una band che viene da Glasgow e che si chiama Jesus and Mary Chain. La band, capitanata dai fratelli Reed, è partita nel 1983, poi si sciolse in malo modo con addirittura botte fra i due fratelli nel 1999, ma si è riformata nel 2007 e i due fratelli stanno resistendo tutt'oggi senza picchiarsi e senza farsi scherzi, a volte un po' macabri, sul palco. Loro hanno fatto, ripeto, Jesus and Mary Chain, hanno fatto 3 album dal vivo, ma uno di questi, che si chiama Left Barrowland, uscì in forma di long play nel 2015 per il Record Store Day. In seguito nel 2022 è stato pubblicato in CD con 7 canzoni aggiunte, per cui se dovete scegliere, scegliete questa ultima opzione, oserei dire. Il terzo album live, che è quello che vi propongo oggi, si chiama Sunset 666 ed è stato registrato all'Hollywood Palladium di Los Angeles il 15 dicembre del 2018. Questo per quel che riguarda le tracce dall'1 al 12. Quelle dal 13 al 17 invece sono stati registrati 4 giorni prima, l'11 dicembre 2018. Infatti loro nello stesso location, perché loro suonarono 6 sere consecutive al Palladium di Los Angeles, che non è un locale molto grande, ma evidentemente Jesus Mary Chain attirano parecchia folla, diciamo. Partiamo subito con questi signori che sono stati per anni i padroni del noise. La loro musica era molto rumorosa, diciamo così, con grandi feedback, molto cupa, molto aggressiva anche, e hanno avuto tantissimo, ma tantissimo successo con un paio di brani, anzi forse di più, diciamo, con 4-5 brani che hanno veramente fatto la storia della musica britannica, tipo quello che ci andiamo ad ascoltare adesso, che si chiama Just Like Honey, Jesus and Mary Chain. Uno dei grandi pezzi, grandi classici di Jesus and Mary Chain, che appunto è stato quello che li ha lanciati nel mondo musicale britannico, fra l'altro in tutto il mondo. Si chiama Just Like Honey ed è il brano di apertura del loro concerto del 15 dicembre 2018 all'Hollywood Palladium di Los Angeles, che è stato immortalato in questo album che si chiama Sunset 666. E per quel che riguarda Sunset è abbastanza facile la connessione, infatti il Palladium è a Los Angeles, a Hollywood in particolare, sul Sunset Boulevard, ma non è al numero 666, ma è al numero 6215, che è tutto un altro numero, però è uno dei locali storici della città degli Angeli. È stato costruito in stile Art Deco nel 1940 ed è uno dei locali storici inserito proprio nella lista dei locali storici americani. Considerando che casa mia è di 8 anni antecedente a questa data, posso benissimo far inserire anche quella nell'elenco dei locali storici americani, ma comunque questo è un joke, così, giusto per dire qualcosa. Comunque diciamo che il Palladium ha una capacità di 4.000 persone in piedi ed è in attività costantemente, appunto, dal 1940, con vari rifacimenti, ma è sempre stato mantenuto questo suo stile Art Deco, che ne fa una cosa, un locale caratteristico. In questo locale sono state registrate diverse cose e ce le ascolteremo in questa prima parte della trasmissione, a partire da qualche band britannica. Esattamente la prima arriva da una band che si chiama Mission. La band fu fondata da Wayne Hussey dopo la sua fuoriuscita dai Sister of Mercy nel 1986. Anche questi dal 1986 hanno subito vari break, e che sono dovuti al fatto che Wayne Hussey ha tentato diverse volte la carriera solista, ma non ha mai avuto il successo che ha avuto con i Mission, per cui tutte le volte è ritornato a riformare la band, che gli ha dato tante soddisfazioni. Quello che ci siamo andati ad ascoltare è un vinile, un 12 pollici, che ha come brano di punta Hands Across the Ocean. Fra l'altro è una limited edition, la mia è la numero 6636, non so su quanto, penso su 10.000, e comprende appunto due brani in studio e uno dal vivo, registrato naturalmente al Palladium di Los Angeles l'11 maggio del 1990, e si chiama Amelia. Daddy! Si chiamano Spiritualized, furono fondati da Jason Pierce, polistrumentista che fu uscito dagli Spaceman 3 per formare questa band che, come vi ho detto, è stata fondata nel 1990 in quel di Rugby in Gran Bretagna. Naturalmente quello che ci siamo ascoltati, un brano che si chiama Medication, è tratto da un promo che si chiama Fucked Up Inside, fu originariamente edito e spedito tramite il fan club degli Spiritualized, non si trovava nei negozi. Poi in anni successivi fu pubblicato ufficialmente con una copertina leggermente, anzi un bel po' diversa. Il tutto è stato registrato al Palladium di Los Angeles il 21 novembre del 1992. Il brano, lo ripeto, si chiama Medication. La cosa più antica che ci ascolteremo quest'oggi, registrata al Palladium, è sempre ad opera di una band britannica. E che band! Si chiamavano Faces, fu fondata da tre ex Small Faces dopo che Steve Marriott se ne andò dalla band, insieme a Ronnie Wood per meglio dire, che era il bassista del Jeff Beck Group, ma in questo caso passò alla chitarra, e la grandissima voce di Ross Stewart. Col passare del tempo però la carriera solista di Ross Stewart ebbe il sopravvento e i Faces cominciarono a sentirsi come la backing band di Ross Stewart. Appunto questo album che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Coast to Coast Overture and Beginners, si chiama Rod Stewart / Faces Live, e loro non erano molto contenti, gli altri che non erano Rod Stewart naturalmente, tanto che poi la cosa portò allo scioglimento. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato il 18 ottobre del 1973, è un medley fra un brano che si chiama Too Bad e la magnifica Every Picture Tells a Story. Io li chiamo ancora Faces. Too bad. Nel 1985, dopo una serie di tensioni abbastanza pesanti, i Bauhaus si sciolsero ufficialmente e da una parte Peter Murphy, il cantante, instaurò una carriera solista con alti e bassi, e invece dall'altra parte i tre musicisti formarono i Lovin' Rockets, che è la band che ci siamo ascoltati. I Lovin' Rockets hanno fatto diversi album in studio e un album live molto bello, si chiama So Alive, e hanno avuto molto più successo negli Stati Uniti che in madre patria, anche perché negli Stati Uniti la casa discografica, che è la BMG, pubblicò questo promozionale che vi ho fatto ascoltare. Tre brani, fra l'altro sono gli stessi tre brani, è un vinile, sono gli stessi tre brani nella facciata A e nella facciata B, completamente uguali. Del resto è un promo e bisogna prenderlo come viene. Un brano in studio e due brani dal vivo, uno dei quali, questo che ci siamo ascoltati, è un classico della musica rhythm and blues, Ball of Confusion, della premiata ditta Whitfield Strong, con inserito anche un piccolo accenno a Ward e Edwin Starr. E il tutto è stato registrato al Palladium Hollywood Los Angeles il 20 dicembre del 1986. A concludere questa parte britannica, oramai preponderante, della rassegna dedicata al Palladium di Los Angeles, arriva, per traghettare anche dalla parte britannica a quella piccola parte americana con cui andremo a concludere, un personaggio che, pur essendo britannico, oramai un apolide, abita dappertutto, a casa dappertutto, ed è quello che ho già definito più volte l'emblema della musica rock. Lui si chiama Keith Richards. Nel 1987 fondò questi Expensive Wines, i vini costosi, insieme a diversi musicisti molto molto tosti: Waddy Wachtel, Steve Jordan, Charlie Drayton, Ivan Neville, Bobby Keys, eccetera eccetera eccetera, e registrarono un album dal vivo, quello che ho tra le mani, che casualmente si chiama Live at the Hollywood Palladium e che è stato registrato il 15 dicembre del 1988. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Too Rude, Keith Richards and the Expensive Wines. Come back, no. Too rude, yeah. Oh, Peter McGee. È scritto dalla coppia Dunbar Shakespeare questo Too Rude che ci siamo ascoltati, una coppia ritmica che ha suonato un po' con tutto il goto della musica reggae e si sente naturalmente. Qui l'interpretazione è quella di Keith Richards con i suoi Expensive Wines, il tutto registrato al Hollywood Palladium di Los Angeles e inserito in questo album che, come ho già detto, è senza grande fantasia, si chiama Live at the Hollywood Palladium. Rimane il tempo solamente per una cosa di una band americana, ce ne sarebbero tantissime, potremmo andare avanti ancora un paio d'ore, ma come sempre nella seconda parte ci deve essere Recorded Today, per cui la prima parte termina qui con questo super gruppo, anche questo, se ad accompagnare Keith Richards c'era fior fiore di musicisti, qui c'è altrettanto, però in una generazione diversa. Abbiamo infatti Tom Morello, Tim Comfortable e Brad Wilk, che sarebbero tre quarti dei Rage Against the Machine, DJ Lord e Chick D, che era poi Chuck D, ho sbagliato a scrivere, che uno si diletta con i giradischi, l'altro è un rapper dai Public Enemy, e Be Real, altro rapper che arriva dai Cypress Hill. Tutti insieme si chiamavano Prophets of Range, plurale, sono durati solamente 3 anni e un album e qualche singolo, fra cui questo, che è più un EP che un singolo, si chiama The Party's Over. Comprende 2 brani in studio e 3 dal vivo, uno dei quali è stato registrato proprio all'Hollywood Palladium il 3 giugno del 2016. Naturalmente questo supergruppo inseriva nei propri concerti i brani delle varie band di appartenenza, e infatti questo è un brano di Rage Against the Machine che si chiama Killing in the Name. It's over. Un altro dei brani che ha reso famosi Jesus and Mary Chain, titolari della novità che vi propongo quest'oggi e che quindi hanno aperto doverosamente la seconda parte di Città Fujiko Live Club del 18 ottobre 2023. Si chiama Some Candy Talking ed è tratto da questo album che vi presento appunto come novità, Sunset 666, ultima prova discografica live dei Jesus and Mary Chain, questa band from Glasgow, Scotland, che nel corso degli anni si è sciolta e riformata diverse volte, sempre a causa dei litigi fra i fratelli Reed, che sono sempre stati i due fulcri di questa super band. Come sempre, però, anticipato, come vi ho già detto diverse volte oramai, costo di essere tedioso, nella seconda parte arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose registrate in questo 18 ottobre. E per forza bisogna scegliere qualcosa, avere un criterio di scelta, e questo criterio è quello di un brano per ogni decade. Siccome ci sono sei decadi, andiamo molto velocemente, subito dal 1969. Siamo al Fillmore West di San Francisco, in concerto una band britannica che però che per un certo periodo ha duellato, scusate il termine guerresco, ma diciamo si è giocata le prime posizioni della classifica britannica e americana con i Beatles. Peccato che adesso dei Move non se ne ricordi più nessuno, infatti si sono sciolti nel 1972 e, come vi dicevo, hanno avuto un grande successo in Gran Bretagna, molto meno negli Stati Uniti, e fra l'altro il membro fondatore Roy Wood, che è stato poi quello che se ne andò dall'Electric Light Orchestra, se ne andò per formare l'Electric Light Orchestra, scusate, insieme a Jeff Lynne, che era entrato nella band proprio nell'anno in cui è stato registrato questo album. L'album appunto risale al 1969, ma è stata pubblicata nel 2012. Per forza di cose, perché sono tutti brani molto lunghi, quello che ho scelto è questo che vi faccio ascoltare, che si chiama Don't Make My Baby Blue, non rattristare la mia donna. E la qualità sonora è quella che è, siamo nel 1969, appunto il 18 di ottobre, il tutto da questi Move. Oh. never said no. Just locks you up, spits you. Dalla foto del retrocopertina si evince che quella sera del 18 ottobre del 1969, in concerto al Fillmore West di San Francisco, c'erano nell'ordine i Move, che erano quelli che aprivano e che ci siamo ascoltati, Little Richard e Joe Cocker. Una seratina da niente. Comunque, questi appunto erano i Move. Come vi dicevo, la registrazione è quella che è, ma è stata registrata fortunosamente e ritrovata fortunosamente qualche anno fa e pubblicata appunto in tempi più recenti. Il brano, lo ripeto, si chiama Don't Make My Baby Blue. The authorities have said that I'm going out. Per anni si è vagheggiato qua in Europa e soprattutto qua in Italia dei fantasmagorici, eccezionali concerti che Bruce Springsteen, la E Street Band tenevano negli Stati Uniti. Ore di concerti, grande energia, grandi covers, grandi brani, e però non c'era niente di ufficiale, tanto che a cominciare da chi vi sta parlando, sborsava un sacco di soldi in bootlegs spesso non della qualità sonora accettabile. Poi improvvisamente il 10 novembre del 1986 Bruce mollò pubblicò un quintuplo long play, un cofanetto enorme con 5 album che racchiudeva la sua carriera dal 1975 appunto al 1985, l'anno in cui fra l'altro lo vedemmo proprio qua in Italia a San Siro. C'erano tutti i suoi pezzi migliori, le covers così, però come purtroppo accade spesso per quel che riguarda Bruce Springsteen e la E Street Band, gli album live ufficiali non sono perfetti, diciamo così, fra virgolette. Ha sempre fatto delle cose, non dico raffazzonate, ma che non rappresentavano appieno quelli che erano i suoi e sono i suoi concerti, fino a che non ha cominciato a pubblicare i bootlegs ufficiali. Ma questo è un altro discorso. Questo benedetto, bellissimo quintuplo long play cofanetto si apriva con una versione primordiale, chiamiamolo così, di uno dei suoi brani migliori. Si chiama semplicemente Thunder Road. Roxy di Los Angeles era il 18 ottobre del 1975. Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band. Talk. and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. The door's open, but the ride, it ain't free. I know you're lonely, and there's words that I ain't spoken, but tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. They're gone on the wind. So Mary, climb in. It's a town full of losers and I'm pulling out of here to win. Non vi dirò che ho le lacrime agli occhi, primo per reputazione e secondo perché, come dicono i Cure, Boys Don't Cry, ma questo pezzo è assolutamente fantastico. Thunder Road era il 18 ottobre del 1975, Roxy di Los Angeles, l'album naturalmente si chiama Live 1975. Dal più grande di tutti, come io considero Bruce Springsteen, quando soprattutto insieme alle E Street Band, a un altro grandissimo che però non ha avuto la fortuna e neanche onestamente la bravura di Bruce Springsteen, ma comunque lui era veramente un grande, si chiamava Willie DeVille, ma si chiamava purtroppo Willie DeVille, ma in questo caso lo vediamo, lo sentiamo per meglio dire con la sua prima band, Mink DeVille. Siamo a Rock Palast, una trasmissione televisiva tedesca a cui ho dedicato una prima parte di programma qualche settimana fa, e in questo cofanetto ci sono due concerti dei Mink DeVille. Attenzione, perché dal 1974 al 1986 appunto Willie DeVille era il cantante chitarrista dei Mink DeVille, poi piano piano, come nel caso dei Faces e di Ross Stewart, lui divenne il personaggio principale e molti cominciarono a immedesimare Mink DeVille in lui, in Willie DeVille, che infatti appunto nell'86 gliela diede su con Mink DeVille e cominciò la carriera come Willie DeVille. È una sottigliezza proprio di quelle sottilissime. Comunque a Rock Palast hanno registrato due concerti, uno del 1978 e uno del 1981. Da questo dell'81, che è stato registrato il 18 ottobre, andiamo ad ascoltarci l'unica cover dell'album, una cover che però ha portato tanto fortuna a Willie DeVille, perché è un gran bel brano scritto da Moon Martin e si chiama Cadillac Walk. Put your hand together. Oh yeah. go down. Guido, she starts to creep around. There's a flame in a profound breath. 14 name notched on her chest. Got a rose tattooed on her thigh. Got mouth raised inside. Drives this young blood. Baby girl, the Cadillac walk, the Cadillac walk, the Cadillac walk, the Cadillac walk. Now when Rita, she turned down her bed, grown bed, bleeding big, saying, oh baby, honey, baby, you the one. Wake it down. Just wave out my arm. Do I'm gone. Leave your heart in. Stay your glow. But no matter what the cost, you know that I'm doing it all. Make my motor. Oh yeah. My little baby. Go! Uno strano connubio, quello fra Jimmy Page e Black Crowes, durò solamente un album, questo che ho tra le mani è un doppio album che si chiama Live the Greek, Access of All Areas, e fecero un tour insieme proponendo diversi brani delle Zeppelin e diversi brani di Black Crowes, però la casa discografica dei Black Crowes mise il veto alla pubblicazione dei brani appunto della band di Atlanta per non so quali motivi, per cui in questo doppio dischetto ci sono tantissimi brani dei Led Zeppelin più qualche cover che però non è trascendentale. Trascendentale invece è la musica dei Led Zeppelin e in ogni modo la si ascolti. Tra l'altro dovevano venire anche in Italia, avevo già i biglietti per il concerto di Milano di Jimmy Page e Black Crowes, ma poi Jimmy Page ebbe grossi problemi alla schiena, come ha tuttora, e il concerto, tutto il tour mondiale fu annullato. Non ci rimane che questo ottimo album, che è stato registrato al Greek Theater naturalmente di Los Angeles il 18 ottobre del 1999. Il brano credo non abbia bisogno di presentazioni, ma per chi fosse arrivato da Marte in questo momento dirò che si chiama Heartbreaker. Gli anni 2000 sono rappresentati da un'altra grande band, oggi una specie di veramente greatest hits. Loro si chiamano Water Boys, sono attivi dal 1983. Anche in questo caso c'è stata una piccola interruzione, interruzione di 5 anni, perché dal 93 al 98 Mike Scott, che è sempre stato il leader della formazione ed è l'unico membro originale della band, Mike Scott tentò la carriera solista. Anche in questo caso, misteri veramente incredibili della musica, non ebbe successo e quindi riformò i Water Boys. Da notare che lui scrive tutti i brani, li arrangia ed è il leader della band, però quando è da solo non riesce a fare quello che fa, o ad avere il successo, per meglio dire, che ha con i Water Boys. Questo è un album live, purtroppo solamente singolo, si chiama Karma to Burn, è stato registrato in diverse location e in diverse giornate naturalmente. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei brani di punta della produzione dei Water Boys, è stato registrato alla Waterfront Hall di Belfast in Irlanda del Nord, naturalmente Gran Bretagna, il 18 ottobre del 2003, scusate, e si chiama The Hall of the Moon. Thank you, Steve Walters, Carlos Hercules, Steve Wickham, Mike Scott, Richard Nave. E questa è la formazione dei Waterboys che il 18 ottobre del 2003 in quella di Belfast registrò questa Hole of the Moon, inserita in un album che purtroppo, lo ripeto, è solamente singolo, album che si chiama Karma to Burn, che non rappresenta anche in questo caso appieno quello che sono i Waterboys. Per quello potete comprare, potete trovare, comprare, scaricare, fate quello che volete, però ascoltatelo. Un doppio CD che si chiama The Live Adventures of the Waterboys. Lì veramente c'è da impazzire. A concludere Città Fujiko Live Club e Record Today di oggi arriva una manica di pazzi furiosi che arriva da Melbourne in stato di Victoria, in quel dell'Australia, e nel 2010 si sono riuniti, hanno formato una band che si chiama King Gizzard and the Lizard Wizard, uno scioglilingua in pratica. Dal 2010, questa è bellissima, hanno pubblicato 25 album in studio più 15 live albums, di cui 2 ufficiali e 13 official bootlegs, cioè bootleg ufficiali. Sono veramente assurdi, fanno praticamente, non dico un album al mese, ma insomma ci vanno abbastanza vicino. Quello che ci andiamo ad ascoltare adesso è il primo degli album ufficiali della band, si chiama Chunky Shrapnel, è stato registrato in diverse location e naturalmente in diverse serate, fra cui una anche a Milano, qua in Italia, dove sono stati mi sembra un paio di volte. Prima però di andare con il pezzo, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo dai 103.1 MHz modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, più naturalmente la nostra app con la quale potete ascoltarci in tutto il mondo e che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Inoltre, per chi avesse perso parte di questa ma anche delle altre mie trasmissioni, ci sono i podcast che potete trovare nell'apposito link che troverete sul sito della radio. Detto questo, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre alle 10.30, sempre 103.1 MHz oppure il web. Vi lascio in compagnia di questi pazzi scatenati che si chiamano King Gizzard and the Lizard Wizard. Il tutto registrato alla Riviera, Madrid, Spagna, il 18 ottobre del 2019. Il pezzo si chiama Wawa. Ciao a tutti da Nevio.